4. Il racconto di Nannerl Mozart. Da bambina amavo parlare la musica con mio fratello Wolfgang. No, non ho sbagliato verbo. Noi parlavamo la musica, non di musica, perché per noi era una dea, una fonte inesauribile di gioia e di creazione alla quale attingevamo continuamente, di giorno e di notte, quando, non potendo dormire per la troppa stanchezza del viaggio, inventavamo dialoghi musicali a botte e risposta, a suon di note. Poi ridevamo finché Leopold, mio padre, non ci ringhiava di dormire, che presto ci si sarebbe dovuti levare per affrontare un'altra faticosa giornata da fenomeni girovaghi nelle corti europee. Odiavo sentirmi osservata come una scimmia ammaestrata. La mia musica mi sgorgava dentro come una preziosa fonte di acqua pura e non volevo che altri potessero sporcarmela con la loro frivola morbosità. Ma la volontà di Leopold era così forte che, sebbene egli mai mi abbia sfiorata con un dito, io lo temevo. Temevo le sue ire e ancor più i suoi silenzi permalosi e contrariati quando non gli si obbediva immediatamente e non si passava ogni momento utile a studiare e a esercitarsi. E così mi rassegnavo alle esibizioni di fronte ai voraci sguardi dei regnanti che oltre alla mia arte guardavano anche me, poiché alcuni di loro si procuravano eccitazione e piacere con bambine e fanciulli impuberi. Quello in cui vissi a cavallo tra 700 e 800 era un tempo in cui l'infanzia non veniva considerata né un valore né una gioia dai genitori, ma solo bocche improduttive da sfamare finché non erano abbastanza in forze da andare a lavorare e contribuire con salari da fame al misero bilancio familiare. I rampolli dell'aristocrazia non se la passavano meglio. Figlie e figli, legittimi e non, venivano dati a balia o affidate ad altre famiglie per consentire ai genitori di proseguire nelle loro vite frivole, inutili e dissolute. Non si pensava che anche noi avessimo volontà, sentimenti e desideri. Solo un secolo dopo le sorelle Sabina Spierhein e Maria Montessori svelarono al mondo che anche bambine e bambini sono esseri umani senzienti. Per Leopold, mio padre, l'unico valore mio e di mio fratello consisteva nel poter, grazie a noi, guadagnare denaro e fama, esibendoci come enfant prodige in tutte le più nobili e coronate case d'Europa: Austria, Germania, Francia, persino Londra, obbligandoci a viaggi estenuanti, con ogni possibile mezzo di trasporto, dormendo in locande sudice e infestate dalle pulci, al freddo o al caldo opprimente, senza poterci lavare per settimane, e costretti a liberare vescica e intestino in luridi buchi, se non addirittura, per non interrompere il viaggio, direttamente in carrozza, in recipienti che venivano svuotati fuori dai finestrini senza rallentare la corsa. E tutto questo ci faceva spesso ammalare. Una volta mi fu data addirittura l'estrema unzione, fui salvata solo grazie alla tenera compassione della principessa di Nassau-Weilburg, che mi fece visitare dal medico di corte dell'Aia. Oh, quanto avrei voluto fermarmi lì per sempre, nella linda stanzetta che mi era stata messa a disposizione, accudita da quell'aristocratica gentile dama, quanto avrei voluto comporre e suonare solo per lei. Poche persone hanno sentito parlare di me, non perché fossi meno talentuosa di mio fratello, ma semplicemente perché ero femmina e nostro padre preferì quindi, come da prassi secolare, investire sul maschio per ricavare da lui ricchezza e considerazione. Fino ai 5 anni, cioè fino a che fui l'unica figlia, era a me che Leopold portava ad esibirsi come bambina prodigio ai clavicembali delle corti europee. Ero io che stupivo l'auditorio per la bravura e la passione delle mie esecuzioni. Le mie dita di bimba erano agili come piccole lucertole e non mi limitavo al solo suonare, ma cantavo e componevo. Mio padre mi portava in palmo di mano ed era fiero di me. Ma quando nacque Wolfgang, io venni messa dietro. Divenni un accessorio, anche se continuai ad accompagnare col clavicembalo i virtuosismi al violino del mio fratellino, il quale però occupava da solo la ribalta. Volevo cimentarmi seriamente con la composizione E ne avevo la capacità, ma Leopold, che pure aveva riconosciuto il mio talento e da piccina mi lodava e mi vezzeggiava, ora me lo proibì. Non mi era permesso suonare nemmeno il violino, poiché la prassi lo vietava alle femmine. Mi fu consentito solamente di accompagnare Wolfgang al clavicembalo fino a che, trascorsi gli anni dell'infanzia, divenne impossibile al nostro vecchio padre esibire come prodigio una fanciulla che, seppur vestita e acconciata da pupattola, era chiaramente in età da marito. Da che mio fratello aveva compiuto 4 anni e aveva cominciato ad esibirsi, io ero rimasta nell'ombra, figura comprimaria che accompagnava lui, il prodigio. Inizialmente per me era un gioco e mi divertivo ugualmente a suonare con Wolfgang, ma poi, lentamente, si insinuò nel mio cuore la consapevolezza della discriminazione, seguita da rabbia e dolore per non poter esprimere liberamente la musica che mi scorreva dentro, come invece era libero di fare mio fratello, e cominciai a soffrire atrocemente. Mi si spezzò il cuore quando fui lasciata a casa per la prima volta da che avevo appreso a suonare. La mattina che vidi uscire di casa Leopold e Wolfgang in partenza per una tournée in Italia senza di me, compresi che la mia vita sarebbe diventata fino all'ultimo una lunga e grigia teoria di giorni tutti uguali al servizio dei maschi di casa. Era diventato troppo oneroso per noi viaggiare tutti insieme, così Leopold mi relegò in casa a dare lezioni per finanziare i viaggi di mio fratello, che era abituato a spendere e vedere soddisfatti tutti i suoi capricci. Era costume ritenere che fosse la femmina quella sacrificabile, giacché, allora come ora, l'arte delle donne non è considerata un buon investimento e permettere loro di studiare non agevolava l'unico sbocco possibile in vita, un buon matrimonio. Le donne che davano concerti, sempre considerate di dubbia moralità, non potevano ricevere alcun compenso, il che, secondo i calcoli di Leopold, era fuori discussione. Il talento di mio fratello ormai soddisfaceva la sua sete di fame e rendeva inutile la mia presenza come coprotagonista. Così io fui messa a girare il basto. Eh già, perché per quanto talentuosa, una giovinetta di buona famiglia non poteva mettere a rischio la reputazione dando spettacolo. Le donne che si esibivano su un palcoscenico, teatro o corte che fosse, erano considerate poco più che prostitute e non importava quanto talento avessero, nessuno si preoccupava di ascoltarle davvero. Appena una ragazza entrava nella famigerata età da marito, tutto il suo studio e la sua capacità artistica potevano essere espresse solo in famiglia o per gli amici, come ben sa la sorella Jane Austen, i cui scritti venivano letti solo in famiglia. Ancora per molti secoli, dopo la mia uscita dal corpo, la musica era considerata imprescindibile per ogni fanciulla che volesse sposarsi bene. Una buona educazione musicale, insieme al ricamo e a qualche elemento di pittura e nozioni di cultura generale, quanto bastava per intrattenere gli ospiti del marito. Il continuo estenuante divieto di comporre, il reiterato bloccare dentro di me la disdicevole tendenza a creare melodie, era come dover ingoiare continuamente bocconi di cibo troppo grossi, e marchiò la mia vita, incidendo profondamente sul mio corpo e sul mio spirito. Io mi chiudevo in camera al buio per giorni con lancinanti dolori di testa, divenni triste e grigia, dando lezioni ai marmocchi e alle marmocchie della buona società salisburghese senza un briciolo di talento, mentre mio fratello brillava come un astro nelle corti europee ed era amato e conteso. Mi mancava la musica con lui, mi mancava lui e mi mancava un senso per continuare ad alzarmi dal letto al mattino. Tuttavia, finché ci fu mia madre, col suo carattere vivace, nonostante avesse perso 5 dei suoi 7 figli e figlie, riuscivo, per l'obbedienza alla quale Leopold mi aveva addestrata a fare il mio dovere e a mantenere col mio lavoro di insegnante le spese dei loro viaggi, ma quando la mia mamma mi lasciò, per ironia della sorte, mi trovai poco dopo a fare infermiera a mio padre, ormai troppo vecchio per viaggiare, tornato a casa a Salisburgo. Dovetti occuparmi interamente io di lui, mentre Wolfgang proseguiva la sua luminosa, fulminante carriera e abitava a Vienna disinteressandosi di noi. Ero sempre più disperata e Leopold sempre più intrattabile, iracondo e frustrato, soprattutto dal fatto che il suo amato figlio, al contrario di me, non gli obbediva per nulla. In età avanzata, per sfuggire alla solitudine, mi sposai con un vecchio barone che aveva già perduto due mogli, diventai una madre per i suoi figli e smisi di comporre. Io ero riservata, obbediente, ordinata e rispettosa. Wolfgang era l'esatto opposto, scurrile, esibizionista, viziato, eccessivo, inviso ai pavoni della corte austriaca per la sua simpatia verso il popolo, ma io lo amavo. E quando i nostri rapporti si raffreddarono da adulti, ne soffrii moltissimo. Eppure l'ultima mia azione in vita fu quella di, lui morto, ordinare e preparare per la pubblicazione tutta la sua musica, che era stata dispersa o svenduta per pagare i debiti che la sua vita dissoluta gli aveva messo continuamente di fronte. Mio fratello morì giovane e io vissi per consacrare al mondo la sua grandezza. Della mia musica invece non resta nemmeno una partitura. Mio padre, per scoraggiarmi, bruciava sistematicamente davanti ai miei occhi la carta da musica su cui scrivevo. La maggior parte dei testi sulla vita di Mozart o non accennano nemmeno all'esistenza di Nannerl o mi nominano come badante di Leopold, mio padre. Nei casi migliori si parla di me come interprete della musica di mio fratello, nonostante il mio talento sia stato ampiamente documentato dal nostro carteggio di famiglia. E ora vi dirò ciò che da secoli mi pesa sul cuore come un macigno. Alcune delle composizioni infantili di Wolfgang, quelle considerate prodigiose, che lo lanciarono come una meteora, erano in realtà opera mia o di entrambi. Wolfgang teneva in gran considerazione la mia musica. Una volta in una lettera scrisse: "Il tuo Lied è bello, cerca di fare più spesso queste cose." E così avrei fatto se fossi stata libera di vivere la mia vita. Ad uccidere la mia arte non fu solo Leopold, ma l'intero sistema patriarcale che da millenni impedisce alle donne di essere riconosciute come artiste, pari agli uomini. Quel che resta di me, un po' di polvere, si trova nell'abbazia di San Pietro in Salisburgo, accanto alle spoglie del fratello di Haydn. Nannerl si era chinata a raccogliere nel pugno un po' di sabbia del deserto. La guardò tristemente e poi lentamente la lasciò sfuggire dalle dita. Leggerissima, la sabbia volò via, trasversalmente portata dal vento, e Nannerl ci fece ascoltare la musica di quella sabbia, una musica di lieve abbandono che tutte udimmo senza che alcuno strumento fosse suonato. Dietro di lei, silenziosa, si era materializzata un'altra donna, minuta, con un mantello color melagrana, drappeggiato attorno alle spalle come una stola. Il capo scoperto mostrava riccioli neri, lucidi, con sfumature mogano. «Cara!» sussurrò, accorata a Nannerl, appoggiandole delicatamente una mano sulla spalla. Possa io, che passai la vita a studiare e fui la prima donna laureata del vecchio mondo, compensare la tua amarezza di un tempo. Si spostò al suo fianco e, chinandosi leggermente in avanti, come facendo un'elegante riverenza, si presentò al cerchio. Sono Elena, Lucrezia Cornerpi Scopia, vissi per studiare. Sfidai il mondo degli uomini con il mio sapere e spesi la mia breve vita per riscattare l'intelligenza delle donne. Mentre Elena si presentava, Gertrude e Karen avevano eretto sopra il cerchio un rudimentale tendone fatto con un grande lenzuolo bianco legato a quattro pali che ci proteggesse dal sole ormai caldo.